Voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You are a toy! You weren't the real Buzz Lightyear, you're an action figure! Abbiamo aperto la quarta parte di Eclettica con un brano diverso rispetto al solito che ci ascoltavamo, estratto da Scale di Herbert. Si presenta così senza il nome di battesimo in questa sua nuova prova. Infatti ci siamo ascoltati una traccia che aveva per titolo Harmonize e proseguiamo invece con un artista che il nome se l'è cambiato completamente, però non per questo side project. Per esempio già in Amore del Tropico aveva utilizzato il nome di Paolo Zappoli, lui è altrimenti noto come Paul Jenkins dei Black Heart Procession, e questo è un disco che già ci eravamo ascoltati anche settimana scorsa per la Sweet Nothing dal titolo Listen Up, e il side project di cui vi dicevo è a nome Mr. Tube and the Flying Objects. Il brano che noi ci ascoltiamo è la traccia numero 3 dal titolo Trying. La storia comincia con sette attori, sei uomini e una ragazza. Lei, lustrini e pizzo sfilacciato, loro cuoio e seta, tutti in maschera, parrucca,

Loro vengono da Brooklyn e si chiamano Essex Green. Cannibal Sea è il nuovo album che esce originariamente per la Quiet American Music, però è arrivato in Europa grazie all'inglese Track and Field Organization, e da questo disco ci siamo ascoltati Snakes in the Grass. Vi ricordo a giulio at radiorockfm.com, oltre, nel caso vi servano, i dettagli per il podcasting, anche la possibilità di vincere i biglietti per Marco Parente, DVD Recording Casa 139 di Milano il 28 di giugno e i CD singoli dei Flaming Lips in arrivo in Italia, e nelle prossime settimane ci saranno in palio i biglietti. Inoltre, sempre lo stesso indirizzo anche per iscrivervi alla lista nera di Eclettica. E queste ultime due parti, la quarta in corso e la terza, direi che la musica italiana ha trovato ben poco spazio. Vediamo parzialmente di rimediare con gli E42 e Vuoi perderti. Thank you. picture a man who misses his father. He never learned to cook for himself and spends all his time on his waistline. I picture a man who lives in the past. He keeps a book of photographs of his younger self, clever and sad. Voglio essere preciso perché arrivano tanti mail relativi a questo brano. Il nome del progetto è Final Fantasy, l'album He Pulls Clouds, l'etichetta è la Tom Lab e il brano che ci siamo ascoltati quasi in chiusura della settimana di Eclettica è Many Lies 49MP. Ma se volete qualche altra informazione rispetto a quelle che ho detto, comunque trovate in playlist, scrivete pure a giulio@radiorockfm.com, che vi sta per salutare sulle note di un estratto da Gang of Losers, l'ultimo dei Dead Ears per la Bella Union. Ci si risente settimana prossima, sempre che ascoltiate per radio. Alla prossima! You're trying to pretend to love. All those people that you think of.